voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Me lo ricordo. È stata una delle mie più grandi soddisfazioni. È stata un'impresa disperata proprio. Ho scommesso con dei miei amici. 1.000.000 se ci davo l'orango. È Mariangela. Mariangela? Questa qua è l'orango, altro che Mariangela. Guardi, ci racconto subito. Mi son detto, Batacchi, qua ci vuole il buio perché la luce con questa non ce la fai neanche te. Ma che dice? L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo. Devo aver preso anche lei, comunque. Mi sono affidato alla bestia. Cioè, Mariangela. Cioè... Il mio amico Jacques Monod parla di un cosmo governato dal caso. Secondo lui, nella vita, tutto avviene per puro caso, eccezione fatta per la prima colazione, che sa con certezza che gli viene preparata dalla fida governante. Naturalmente, credere in una divina provvidenza dà molta tranquillità, ma ciò non ci esime dalle nostre responsabilità umane. Sono io forse il guardiano di mio fratello? Ebbene sì. In tal caso condivido questo onore e onere con il giardino zoologico. Sentendoci privi di Dio, dunque, abbiamo fatto una divinità della tecnologia. Ma può la tecnologia rappresentare la risposta esatta? Quando una Buick nuova di zecca, con il mio socio Nat Zipski al volante, sfonda la vetrina di una tavola calda, seminando il panico fra centinaia di avventori? Il mio tostapane non ha mai funzionato a dovere in 4 anni. Io seguo le istruzioni, infilo 2 fette di pane nelle apposite fessure, ma 2 secondi dopo quelle partono come schioppettate. Una volta ruppero il naso ad una donna che amavo teneramente. Possiamo forse contare su bulloni e viti e fili elettrici per risolvere i nostri problemi? Sì, il telefono è una gran bella cosa. Idem il frigo. Idem il condizionatore d'aria, ma non tutti. Non quello di mia sorella Annie, per esempio. Il suo condizionatore fa un grande frastuono e non rinfresca l'aria. Quando viene il tecnico ad aggiustarlo, va ancora peggio. Oppure le dice di comprarne un altro. Se lei si lamenta, il tecnico dice di non seccarlo. Quell'uomo è davvero alienato, non solo alienato, ma neanche riesce a smettere di sorridere. Il guaio è che non ci hanno adeguatamente preparato ad una società meccanizzata. Purtroppo i nostri politici sono o incompetenti o corrotti, talvolta tutte e due nello stesso giorno. Il governo è sordo ai bisogni dell'uomo medio. Quelli poi, al di sotto della media, non riescono neanche a parlare con la segretaria di un sottosegretario per telefono. Questo era ancora Discorso ai laureandi, da Effetti collaterali di Woody Allen. Si è aperta la seconda parte di Eclettica anche di quest'oggi in compagnia di Giulio Caperdoni. Vi ricordo, tutti i giorni della settimana su Rock FM fra le 19 e le 20 si è aperta con un brano diverso rispetto al gruppo di New York City, anche se di origine giapponese, un pezzo diverso rispetto a quello ascoltato settimana scorsa. Settimana scorsa gli Asobi Sexu ci avevano fatto ascoltare Goodbye, questa settimana invece la seconda parte di Eclettica si è aperta con Thursday. Poi abbiamo ascoltato e si è appena chiusa la canzone dei The Deadly Syndrome, che da qualche settimana a questa parte stiamo imparando ad apprezzare, imparando a conoscere anche la band di Los Angeles, il quartetto che a me ha molto colpito con questo disco, come penso colpirà anche il disco dei Rogway, disco che uscirà il 18 di settembre. Penso che colpirà soprattutto la Sub Pop, che li ha lasciati andare. Poi non so come siano state effettivamente le cose, se il gruppo ha lasciato l'etichetta oppure viceversa, l'etichetta ha scaricato il gruppo, o se ne sono andati di comune accordo. Il disco nuovo Asleep at Heaven's Gate da parte dei Rogway comunque uscirà per la Brushfire Records. Dico che magari alla Sub Pop la cosa potrà non fare tanto piacere, perché probabilmente hanno fatto il miglior disco della loro carriera. Provate a sentire questi 5 minuti di indie pop. Thank you. però mi sembra di aver sentito dire che bisogna amputare una cosa che finisce in accio. Accio? Accio, accio, braccio. Amputazione del braccio, bene sega. Un braccio? Ah! No. Un braccio. Bene. No, un braccio. Però potrebbe essere anche il polpaccio. Polpaccio. Preparo. Braccio, polpaccio. Polpaccio. Beh, nel dubbio me li faccio tutti e due. Ah! No. Non nego che la democrazia sia pur sempre la migliore fra le forme di governo. Perlomeno in democrazia le libertà civili sono garantite. Nessun cittadino può essere torturato ad arbitrio, imprigionato o costretto ad assistere a certi spettacoli di Broadway. Si è ben lontani qui da noi da quel che accade in Unione Sovietica. Sotto il regime totalitario di là, una persona sorpresa a fischiettare è condannata a 30 anni di lavori forzati. Se dopo 15 anni non smette di fischiettare, la fucilano. Alle forme più brutali di fascismo fa da contraltare il terrorismo. In nessun'altra epoca storica l'uomo ha avuto, come oggi, paura persino di tagliare la bistecca che ha sul piatto. Potrebbe esplodere. La violenza crea violenza e si prevede che, entro il 1990, il sequestro di persona sarà la forma predominante di interazione sociale. Il sovraffollamento esacerberà i problemi fino al punto di rottura. Dalle cifre risulta che già ci sono più persone sulla Terra di quante ne occorrono per spostare anche il più pesante dei pianoforti. Se non si pone un argine alla crescita demografica, nel 2000 non ci sarà più spazio sufficiente in trattoria per servire il pranzo a tutti, a meno che non si apparecchino tavoli su due strati, cioè sopra le teste dei primi arrivati. Costoro non dovranno però muoversi finché mangiano quelli di sopra. Naturalmente l'energia scarseggerà e la benzina verrà razionata. a ognuno quanto basta per spostare la macchina da un lato all'altro della strada a giorni alterni. Anziché affrontare queste sfide, ci distraiamo invece con trastulli come il sesso e la droga. Viviamo in una società troppo permissiva. Mai in passato la pornografia aveva avuto tanta diffusione. E quei film sono così male illuminati. Siamo gente a cui manca uno scopo preciso, una meta. Non abbiamo mai imparato ad amare. Ci mancano capi e programmi coerenti. Non abbiamo alcun centro spirituale. Andiamo alla deriva, tutti soli, nel cosmo, sfogando la nostra mostruosa violenza gli uni sugli altri, spinti da sofferenza e frustrazione. Per fortuna non abbiamo smarrito il nostro senso della misura. In conclusione, è chiaro che il futuro offre grandi opportunità. È anche disseminato di trabocchetti. Il trucco consiste nell'evitare i trabocchetti, prendere al balzo le opportunità e rientrare a casa per l'ora di cena. Questo era ancora Discorso ai laureandi, da Effetti collaterali di Woody Allen. Qualche giorno fa ho ricevuto un mail, ve lo leggo perché è brevissimo. Ormai mi capita spesso di ascoltarti e soprattutto in queste ultime settimane mi capita tutte le sere e ti volevo dire una cosa. Il libro è meraviglioso, domani lo compro. Mi piace molto questa cosa del fatto che le letture di Ecletica possano stimolarvi a leggere un libro, a comprare un libro, andare in biblioteca per recuperarlo. Mi piace veramente tanto. Direi quasi quasi obiettivo raggiunto, e non perché io abbia ovviamente una percentuale sulle vendite dei libri. Ecletica che sta volgendo il termine anche per quanto riguarda quest'oggi, giovedì. Ci siamo appena ascoltati i Figurines con High Girl, un gradito ritorno all'interno delle playlist di Ecletica, dove invece stanno per comparire la prima volta un gruppo il cui nome è The Desert Fathers. Al suo interno c'è uno dei membri dei Forms. Io ho scoperto questi Desert Fathers leggendo un'intervista a Steve Albini che rispondeva alla domanda: chi è per te il migliore gruppo del momento? The Desert Fathers. Allora ho dovuto assolutamente cercare il loro disco. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 44, volume numero 4. Indice, Adriano Modica, Atmosphere, Robin Hitchcock, Dirty Projectors, Vittorio Cane insieme a Mao, Margaret Kammerer, Asobi Sexu, The Deadly Syndrome, Rogue Wave, 120 Days, Figurines, The Desert Fathers. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.